Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Oggi vorrei invitare il pubblico a guardare con un occhio diverso e più attento la propria città. Ma non è detto che debba essere una grande città, potrebbe essere anche un piccolo luogo di provincia, potrebbe essere un paese, potrebbe essere il proprio quartiere, potrebbe essere addirittura solamente la propria casa. Provate a riflettere che esistano un'infinità di realtà che si sovrappongono l'una all'altra. Quella che voi vedete ogni giorno, le strade attraverso cui passate, anche i monumenti, anche le apprezzabili espressioni artistiche a cui avete fatto l'occhio, in realtà sono l'aspetto più superficiale. Quello che voi vedete, passate, potete toccare, fa parte della familiarità del paesaggio che attraversate ogni giorno. Già le opere di maggior pregio contengono in sé un linguaggio decifrabile e segreto che probabilmente rientra, si interpreta attraverso la sensibilità dell'artista o attraverso alcuni messaggi che l'artista vuole lasciare in un'architettura, in un'opera d'arte e nell'urbanistica di le soluzioni urbanistiche di una certa area della vostra città. Quindi già ci sarebbe da riflettere rispetto a quello che frettolosamente noi passiamo. Ma lo stesso selciato fatto in una certa maniera piuttosto che un'altra, quando cambia il selciato cambia la nostra impressione, il nostro passo diventa diverso, quando improvvisamente cambia il senso di una strada in una città e noi vediamo la stessa strada vista da un'ottica diversa, abbiamo scorci diversi. Insomma, vogliamo pensare oggi che le città abbiano una loro profonda anima? Nessuno si offenda, lo dico in senso lato, lo intendo come qualcosa che non è immediatamente percepibile, ma la sua personalità. Ecco, da cosa è composta l'anima della vostra città? Lo sapete, lo avete intuito, lo avete letto, vi siete informati, qualcuno ve l'ha raccontato, esiste un racconto, una spiegazione rispetto a quel particolare monumento, a quella lapide, molte volte anche semplicemente un piccolo ricordo, anche un mazzo di fiori appoggiato a un marciapiede dove qualcuno è morto perché si è schiantato con una motocicletta, ha un senso, carico il luogo di un significato, qui è morta una persona, sarà tramandata questa cosa, se lo ricorderanno, rimarrà nella memoria di qualcuno. Ecco, se una cosa così banalmente tragica quanto si voglia, naturalmente non tendo a minimizzarlo, ma banalmente legata al nostro quotidiano, segna un posto. Pensate quanto abbia segnato un posto le varie stratificazioni delle costruzioni. Vivo in una città che non so quanti strati abbia, quante persone abbiano costruito, distrutto, riedificato, ricostruito, ridistrutto, riedificato. Noi vediamo le rovine romane, ci sembra già di cogliere le vestigia più lontane di questa città, eppure sotto c'è molte altre cose, ma anche la periferia apparentemente più anonima sotto altre cose. La terra è stata calcata e attraversata da moltissime persone, da moltissimi pensieri. Ecco, questa mattina vorrei soffermarvi e vi chiederei di aiutarmi riguardo al vostro luogo a pensare quale sia l'anima, cosa passi attraverso le vostre città. Lo so che è una domanda che può sembrare astrusa e strana, ma oggi è una giornata primaverile, c'è la luce giusta, è l'ora giusta, c'è il sole giusto per cercare di capire di cosa sono fatte le nostre città. 800240024. Devo accedere agli archivi vaticani. Professore, non credo che sia il momento più opportuno. La sua richiesta è stata respinta sette volte. Questo non ha niente a che fare con il mio lavoro, il cammino dell'illuminazione. È un percorso segreto che attraversa Roma e che conduce alla chiesa dell'illuminazione, il posto dove gli illuminati si riunivano in segreto. Se riesco a trovare il segno, l'indizio, che indica dove comincia il cammino... Le quattro chiese lungo il percorso forse sono quelle in cui intende uccidere i vostri cardinali. Uno ogni ora, alle 8, alle 9, alle 10, alle 11. Poi il dispositivo esploderà a mezzanotte, ma se riusciamo a trovare la prima chiesa e ad arrivarci prima di lui, forse lo fermiamo, ma non posso trovare l'inizio del cammino se non ho accesso ai vostri archivi. Anche se volessi aiutarla, l'accesso agli archivi è consentito solo su autorizzazione scritta del Consiglio dei Bibliotecari Vaticani. Oh... Per mandato papale. Sì, ma come lei. Quello che abbiamo sentito è un brano di un film molto noto, tratto da un romanzo molto noto, Angeli e Demoni, Dan Brown, romanzo che è storia e rilettura di una città che ha fatto anche molto discutere. Perché? Perché sottende l'idea che al di là delle realtà, delle impalcature religiose, delle strutture, dei segni del comando, questo termine dovrebbe farvi riflettere, esistano delle altre realtà sotto. E non a caso tutti quelli che cercano in qualche maniera, attraverso una forma romanzata, attraverso una ricerca empirica e molto più esatta, di spiegare il senso profondo delle città, vengono sempre considerati come degli eretici. Cioè, sempre qualcuno c'ha qualcosa da dire. Perché? Perché le città sono fatte di tanti strati, perché la realtà è fatta di tante interpretazioni e ognuno naturalmente ha la sua. 800240024. Citavo tra l'altro un appunto di Byron. 21 aprile, notte, ore 11, esperienza indimenticabile, piazza con rudere di tempio romano, chiesa rinascimentale, fontana con delfini, messaggero di pietra, musica celestiale, tenebrose presenze. Piazza con rudere di tempio romano, chiesa rinascimentale, fontana con delfini? Eccola, questa qui. Già, sembra proprio che Byron alluda a questa piazza. Credevo di aver fatto una scoperta. Qualcun altro l'ha fatta prima di noi. Poco dopo la pubblicazione del mio articolo, un tale mi ha scritto da Roma una lettera estremamente gentile, piena di elogi, nella quale però si contesta una delle mie affermazioni. Io ho scritto, infatti, lei lo ricorderà, che la piazza... Quelli non proprio giovanissimi lo ricorderanno, proprio il segno del comando, fu uno sceneggiato televisivo di genere fantastico, in 5 puntate, che la RAI produsse felicemente nel 1971 per la regia di Daniele Danza. Anche qui fu una fantastica e indimenticabile esperienza, perché il pubblico della televisione italiana, abituato a una lettura molto ortodossa alla realtà, si confrontò forse per la prima volta con le interpretazioni eterodosse della realtà. La storia di un professore di letteratura inglese di Cambridge che, alle prese con un diario di Lord Byron, scritto durante il soggiorno del 1817 del poeta a Roma, trova tracce di un misterioso pittore, un certo Marco Tagliaferri, e improvvisamente si trova immerso in una realtà fantastica. Roma è attraversata da misteriose visioni, da un sottile filo magico. In questo senso la magia non ha l'accezione che gli ho attribuito una 3 giorni fa, quando parlammo di ciarlatani che vendevano pozioni per guarire, per innamorare o per cambiare loro affari. Qualcosa diverso, qualcosa legato al senso sottile, profondo, poetico e misterioso che ha ogni luogo. Per aiutarmi a scandagliare, intanto per la città di Roma, ma con competenze il mio ospite, l'ospite che sto per presentare, in generale su tutte le città che voi proporrete, ho in studio Roy Doliner. Roy Doliner, buongiorno. Buongiorno. Roy Doliner viene definito l'anti Dan Brown, non so perché, ma qualcuno dice questo. Ha scritto un libro, Segreti della Sistina, e un altro libro per la Rizzoli, Il disegno segreto, il messaggio della Kabbalah nell'arte d'Italia. In particolare è riferito alla città di Roma. Città di Roma che tu conosci. Da quanto tempo abiti a Roma? Pieno tempo, sì. 15 anni ormai. 15 anni. Sei di origine invece? Di New York. Sei un newyorkese naturalizzato a Roma. E cosa hai osservato in questa città? Questa città l'ho portata come esempio, la città stratificata per eccellenza, ma vedrai che ne arriveranno altri esempi da altre città d'Italia. Tu cosa hai osservato? Hai visto che attraverso questa città, che sembra raccontare tutto in un colpo d'occhio, esistono tantissime realtà non sempre così palesemente raccontate o conosciute? Ma la città fisicamente è stratificata, ad esempio se pensiamo della chiesa di San Clemente, c'è livello dopo livello dopo livello, anche quando i romani costruirono una via tipo l'Appia Antica, loro fecero prima una fossa e poi uno stratum dopo uno stratum, dopo un stratum, e tutte le vie di Roma antiche erano stratificate, e da questo abbiamo preso la parola strada, da strata in latino, ma anche ogni chiesa sotto ci sono pezzi di Roma antica. Anche nei fori imperiali gli archeologi oggigiorno trovano pezzi dell'epoca di bronzo, anche epoca etrusca, sotto Roma antica. Io invece trovo i segnali, i simboli di pensieri diversi in tutta la città, infatti in tutte le città d'Italia. Ecco, ma l'operazione che viene in mente immediata è quella, scavando si vedono i vari strati, ma molte volte anche la stratificazione non necessariamente così sotterranea, è palese, sotto gli occhi di tutti, è questione di interpretazione. È vero, È proprio vero. Racconto una storia cabalistica nel libro. Sì, perché diciamo subito, la cabala, cioè la tradizione ebraica dei numeri, delle lettere, è la tua chiave di interpretazione, quella che tu analizzi e vedi come maggiormente interessante per la tua formazione, per i tuoi studi. Sì, ma è molto difficile definire la Kabbalah in una battuta, due, tre righe, perché è di tutto. È un altro modo in cui possiamo vedere l'universo attorno. Spieghiamo che è una branca mistica dell'ebraismo piuttosto recente, diciamo, del settimo, ottavo secolo. Ci sono anche delle tracce nella Bibbia ebraica. Sì. La visione di Ezechiele, ad esempio, la sua visione del carro celeste. È la tradizione per eccellenza, diciamo. La realtà va studiata attraverso combinazioni non certo casuali, lettere e numeri. Io sfondi porte aperte con me, io per anni mi sono ispirato alla figura del golem, che è uno dei frutti della Kabbalah più noti alla tradizione generale. Anche Melog si chiama così perché è il golem al contrario, e questo è risaputo. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore, se ci danno qualche ispirazione. Noi partiamo dalla città di Roma, ma attualmente ci allargheremo a raggio a tutta Italia. 800 24 00 24. Silvia. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Allora, io volevo suggerirle questo passo di questo libro che adoro, che è Le città visibili di Italo Calvino. Lo immagino. La città è Clarice. Allora, c'è un passaggio che mi fa impazzire, ed è questo. Quando parla del capitello corinzio che era stato usato come supporto per il cesto delle galline, e nel tempo alla fine non si sapeva più se il capitello corinzio fosse stato prima sopra le colonne o proprio come supporto per le galline. Posso dire una cosa, visto che questa è una trasmissione che vale per le esperienze personali, da questo la mia riflessione era questa, che le città sono sempre state, come dire, rimasticate, diciamo, no, dai propri abitanti. Adesso invece noi siamo in un momento in cui certe cose le vogliamo conservare a tutti i costi, no, senza più domandarci. Questo è molto interessante. No? Questo è molto interessante. Esatto, cioè le ricordo che la sua Roma, no, aveva utilizzato i marmi del Colosseo per fare la malta, per i mattoni. Ma io guardi, sono io che proclamo la sovrascrittura di ogni pensiero, di ogni ideologia, di ogni convinzione costante, terapeutica e quotidiana e volontaria. Si figuri se mi fermo di fronte a questo. Io sono per rimasticamento. No, e anch'io, guardi, io sono anche architetto, e quindi, come dire, non mi piace la musealizzazione, cioè, come dire, cristallizzare nulla nel momento in cui adesso non lo posso utilizzare. No, posso dire una cosa? Silvia, rispetto al capitello di Calvino che le ha citato, le ricordo che la mia fanciullezza è passata attraverso preziosissime urne cinerarie etrusche, che era molto facile trovare semplicemente scavando una vigna nelle campagne intorno a Perugia, che usavano come greppe e mangiatoie ai contadini e per metterci dentro il pastone per le galline. Ma hanno viste veramente tante, come le pietre etrusche venivano messe nelle fondamenta delle città perché facevano massa. Quindi è bello vedere la scomposizione e la ricostruzione delle città. Maria Clotilde. Allora, io sono interessata a parlare di Genova. Genova è questa città splendida, a ferro di cavallo sul mare, come tante mediterranee, da Trieste a Marsiglia a Barcellona, ed è fatta su tre terrazzi marini. Il primo, dove sta proprio ristretto il centro storico, che è il più importante d'Europa. Poi il secondo terrazzo, questo primo terrazzo, va dal livello del mare a 30 metri sul mare. Poi ce n'è un altro molto grande, dove si è sviluppata la città ottocentesca, e poi ce n'è un terzo ancora più in alto, della circonvallazione a monte, che è il più recente. E come dice Caproni, la mia città dagli amori in salita. Sì, però Clotilde, lei sta facendo un racconto della sua città come lo farebbe una guida turistica a un pullman di giapponesi o di polacchi. Io vorrei sapere cosa c'è sotto. C'è sotto il mare, protagonista è il mare. Sì, ma lei Clotilde, che vive a Genova tanti anni, al di là, diciamo, di questa esposizione che trova anche su Wikipedia simile, cosa vede la sua città che non vediamo noi, che non vedrei io passandoci, arrivando come frettoloso viaggiatore, come tante volte ho fatto. Ma se lei va per esempio per Carruggi, vede la città che vive, i piccoli negozi, gli artigiani. Benissimo, questo fa parte del colore, del folklore molto pittoresco, ma c'è qualcosa di nascosto, di segreto, che lei ha capito, che lei ha intuito, che lei immagina, che lei spaventa della sua città? La mia città è una città cosmopolita perché c'è tanta gente. Clotilde, si sforzi, io voglio che persone mi raccontino qualcosa che non si vede, qualcosa che magari li fa rabbrividire, o qualcosa che li attira, o qualcosa che li seduce, non semplicemente la cartolina della città, di questo non me ne importa nulla, c'è un'infinità di programmi che parlano quanto è bella l'Italia, e vi fate un giretto e vi dite quanto è bella l'Italia. Torniamo al nostro ospite, Roy Doliner. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro nella mia richiesta. Se dovessi rivolgere a te questa domanda di 15 anni di Roma, dammi subito delle suggestioni, qualcosa che nessuno vede, nessuno ha visto, tu hai capito e intuito. Dimmi. I miei libri sono zeppi di questi esempi. Ad esempio, guarda, uno degli oggetti più fotografati al mondo, la Fontana di Trevi. E quando ho parlato con tanti esperti qui a Roma mi hanno dato retta, ma tutti mi hanno detto non ci ho mai pensato. Platone nei suoi scritti parla del ragione, pure nella Kabbalah e nel Talmud parliamo delle due metà del cuore umano, Yetzer Hara e Yetzer Hatov, cioè l'inclinazione a fare del male, l'inclinazione a fare del bene, l'inclinazione a seguire i nostri impulsi bestiali o materiali e l'impulso di avvicinarci allo spirituale. E in questo la Fontana di Trevi? Allora, Platone scrisse che c'è questo carro mistico, la differenza è nella tradizione ebraica il Signore, l'Onnipotente guida il carro, oppure l'essere umano guida il carro è il cuore umano. Platone scrisse una metà è come un cavallo che rifiuta a venire domesticato, e l'altro è docile e fa la strada dritta. E questa è l'allegoria di Bernini nella Fontana di Trevi, rappresenta questo? Tutti parlano di Nicola Salvi. Salvi non fece la fontana perché lui morì molto in anticipo, avevano fatto soltanto la fondamenta e basta, e presero un certo scultore, Pietro Bracci. Sì. E infatti ho intervistato per questo mio libro il suo ultimo discendente, siamo diventati pure amici, Mario Bracci, e ho visto tanti documenti e Bracci fece la parte centrale della fontana, la parte più nota, cioè il Tritone o Poseidone. Poseidone, sì, con tutte. Sul carro marino, con i due cavalli alati, e uno è Yetzer Hara, l'inclinazione a ribellarsi, a fare del male, e l'altro è un cavallo molto docile, molto dolce, e questa è la nostra ragione, la nostra spiritualità. È proprio lì. E lui fece parte, questo scultore Bracci, della scuola di razionalismo. Era proprio un discendente filosofico della Kabbalah qui. Quindi a Roma. C'è un significato cabalistico anche nella Fontana di Trevi, con i momenti più conosciuti di Roma, tutti vanno a buttarci la monetina, a fare questa sorta di moderno rituale per poter ritornare nella città, nota per la lettura ne fece Fellini, Ekberg che entrò dentro e chiamò Marcello Mastroianni, Totò che vende la Fontana di Trevi, insomma una serie di aneddoti, ma nessuno ha colto questo simbolismo che hai visto te come studioso della Kabbalah, che in realtà c'è un significato allegorico che ricorda la Kabbalah nella costruzione di questa fontana. 800240024, ci fermiamo per le informazioni della borsa, riprendiamo tra un istante, diteci i segreti nascosti delle vostre città. Melog, la realtà condivisa. A Roma Roma, la porta magica, detta anche porta alchemica, è la protagonista di una serie di leggende metropolitane. Una di queste racconta che presso la porta l'eccentrico marchese Massimiliano Palombara aveva preso un'ampia villa. Palombara era un dilettante dell'occulto, attratto in particolare dalla dottrina rosacrociana e dall'alchimia. Lui e la sua cerchia di amici consultavano volumi ed effettuavano viaggi sperando di imparare a trasformare il piombo in oro. Una notte un giovane sconosciuto si presentò alla villa e chiese ospitalità in cambio di alcuni segreti alchemici che diceva di conoscere. Il marchese non resistette e gli concesse ospitalità per la notte, ma il mattino seguente, quando si alzò e andò a cercarlo, scoprì che il giovane era sparito. In compenso, nel laboratorio segreto di Palombara mancava un po' di piombo e al suo posto c'era un pezzetto d'oro zecchino. Alla fine, posato su un tavolo, il marchese trovò un biglietto con qualche parola di ringraziamento e una serie di termini e simboli sibillini. Forse si trattava di quella formula che aveva inseguito per tutta la vita. Bellissima storiella, ci siamo appassionati tutti. Una delle prime cose che si fa vedere a Roma è la porta magica, vegliata da due demoni, che adesso è a metà di Piazza Vittorio, circondata da un cancello, abbastanza seppellita dall'immondizia. Lì ci sono dei bivacchi perenni, continui, ma uno immagina attraverso questa porta, irta di simboli alchemici, esoterici, si passa in un'altra dimensione, come uno Stargate. Roy Doliner, che è qui in studio con me, ha scritto Il disegno segreto, il messaggio alla Kabbalah nell'arte d'Italia, edizioni Rizzoli, ha analizzato anche questi miti. Che bello, quando io ho chiesto oggi, ho chiamato a raccolta al pubblico a raccontare i segreti delle proprie città, ma anche scritto uno: hai sbagliato tema, non interessa a nessuno questo stupido e banale argomento. Stupido e banale, però ne parliamo ugualmente, perché qualche sensibilità la cogliamo comunque. Ecco, sulla porta magica, come tanti altri miti delle città, diventano poi leggenda metropolitana, diventano materia da libretti da stazione sui misteri delle città. Tu hai confessato questo mito della porta magica romana? Sì, una parte del mio lavoro è non soltanto di svelare i segreti cabalistici e talmudici nella cultura italiana, ma anche per smentire i miti, le cose che non sono della Kabbalah. E la porta magica non ha niente a che fare con la vera Kabbalah. Non c'è nulla di cabalistico in quei segni messi lì, o messi a caso, non lo so adesso. Non a caso, però è Kabbalah finta. Questo marchese, lui voleva stare sempre sotto i riflettori nel Settecento, lui voleva sempre stare al centro della vita mondana. Fabrizio Corona di quei tempi. Conosceva bene il meccanismo, diciamo, della divulgazione delle immagini, della celebrità, ecco, lavorava su questo. Quindi esatto. Si è inventato la porta magica. Eh sì, e se pensiamo del film degli anni 60 di Albertone, Il Boom, sì, in cui tutti fingono di star bene e ciascuno è disperato per i soldi. E chiede i soldi agli altri. Allora, questa cerchia, tipo Cristina di Svezia, il cardinale Decio Azzolino, tutti erano affamati per i soldi. E speravano veramente che qualcuno riproducesse l'oro con il piombo. Esatto, e il marchese disse, oh, ho trovato il segreto. Venivano tutti al suo giardino e lui fece costruire questa porta magica già murata da capo nel giardino, e lui usò simboli raccolti da un sacco di testi alchimici e cabalistici per costruire questa porta. Si sa benissimo che lui era un po' come un Leon Battista Alberti, a lui piacevano, anche come Leonardo da Vinci, un po' più come il mago Telma, mi sembra, se è vero quello che tu hai studiato, cioè aveva costruito la porta magica dicendo: da qui non vi dico cosa può succedere, ma succede tutto, una sì, cosa del genere. Ma a lui piacevano i giochi di parole, gli enigmi e così via, e sua casa era zeppa di scritte, di battute, di enigme, di puzzle e giochi di parole, e lui mise tutto su questa porta magica e tutti venivano, ma era soltanto per attirare un po' di attenzione. No, lo dico perché sono scritti fior di volumi sulla porta magica, ma volumi così, l'ho letti tutti, come se fosse una sorta veramente di Stargate, di luogo di posto di congiunzione fra diverse realtà. Ma è molto facile giocare con i simboli, soprattutto quando sono occulti, e millantare conoscenze che non sempre si hanno. Carmelo, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Nicoletti. Sì, pronto? Sì, la sto ascoltando. Perfetto, io volevo raccontare due storie di due argomenti diversi riguardanti la città di Catania. Molti non sanno che a Catania, per molti anni, di fronte al Duomo, nel marciapiede, io vedevo che c'erano due botole, un metro per un metro, che sembravano delle normalissime botole che coprivano dei pozzetti di ispezione, di fogne e quant'altro. E una volta c'è entrato dentro? No, la mia curiosità è come mai proprio di fronte al Duomo ci fossero queste botole, queste due botole. Dopo diversi anni, casualmente, ho conosciuto un ricercatore dell'università che mi fece entrare. Sostanzialmente sotto ci sono due belle stanze antichissime ed erano le terme romane, chiamate Achilliane. All'epoca i romani che andavano a fare le terme. Dentro queste due stanze bellissime ci sono delle porte occluse, chiuse, sembrerebbero dei collegamenti con dei cunicoli che portano in tutte le zone di Catania, anche a diversi chilometri da questo punto. Sì, questo in tante città, anche nella mia città, Perugia, si diceva ci fosse tutta una sorta di camminamenti sotterranei. Consideri che questi camminamenti, si dice, che colleghino anche la Villa Bellini, Piazza Sesigoro, dove esiste a Piazza Sesigoro la città antica di Catania. Ma nessuno l'ha mai percorsi? Questi... Ecco, una leggenda metropolitana racconta che una scolaresca in visita a Catania Antica, su Piazza Sesigoro, esistente ancora, si vede, entrò per visitarla e non uscì mai più. Non si è mai capito se questa fosse una leggenda metropolitana oppure fosse la verità. Di notte sentono ancora le voci della scolaresca fantasma che gira sotto Catania. Esatto, sicuramente. Chissà quanta roba c'è dentro il cemento in quella città, quindi c'è anche la scolaresca. È così che tutta questa città di Catania stratificata, siamo a 10 metri sotto il... No, però lei mi dà uno spunto interessante. Molte città, ma anche paesini, piccoli paesini, sì. Si dice sempre, e probabilmente risponde a verità, che esista una sorta di gestione sotterranea della città, sette segrete, sì. Persone misteriose che riescono facilmente a passare da una città addirittura. Nelle città mistiche dell'Umbria si dice che ci sono i camminamenti fra i monasteri dei frati e delle monache per indegni connubi, capito? E si diceva addirittura costellati a metà si trovano ancora gli scheletrini dei feti trafitti da degli spilloni. Questo dice ogni muratore, ogni capomastro, che erano i frutti illeciti di questi orrendi connubi. Ma in città dove c'erano tanti preti e tante monache giravano anche queste leggende. Sergio, buongiorno. Pronto? Sì, velocemente, vedo che avete tante città. Lei a Pisa, sott'occhio. Sì, una cosa molto curiosa. Io la considero Pisa dove... Adesso abito a Cuneo, però sono molti anni considero... Abbassi la radio però, abbassi la radio Sergio, la spenga. Anzi. Ah, un attimo, scusa. C'aveva in un'altra stanza, ecco. Ecco così. E allora, scusate, saluto. Sono diplomato per il territorio e all'IT, e l'insegnante di lettere dice... Nel battistero, nella piazza dei Miracoli, sì. Adiacente alla torre c'è il battistero. Sì. Lì, anche lì, dietro, ci sono le famose unghiate del diavolo. L'ha vista lei? Però non tutti i pisani lo sanno. Quindi oggi guardano... I pisani non sanno sono le unghiate del diavolo. C'è qualcosa del genere anche in una chiesa qui a Roma, sul Lungotevere. Dottore, lo sa anche lei era corrente? Sì, certo. No, sono delle esse. Alte 30 centimetri, all'altezza di 5 metri, quindi ma il diavolo no, quando... non puoi toccarle, bisogna avere una scala, però non basta perché sono nella lunghezza, sono quasi un migliaio, e quindi a volte si contano 920, 920. Ma i diavoli saltano quando danno di unghie, mica stanno fermi, è logico che salta alto il diavolo quando dà le unghiate. Ma anche a Roma c'è una chiesa sul Lungotevere, un piccolo duomo di Milano lo chiamano, c'è una cappella dei Santi del Purgatorio, c'è una specie di piccolo museo che fanno vedere, ci sono anche le unghiate del diavolo, quindi il diavolo lascia unghiate in giro. Nicola, buongiorno. Eccomi. Allora, io vorrei parlare di Mantova e della parte, diciamo, chimica e cabalistica. No, mi fa piacere che alla fine vedete che c'è una lettura non consueta delle città che tutti conoscono, non soltanto gli esperti, non ti dire che stiamo parlando di baggianate. Esiste, si sa, è nell'aria, uno l'ha sentito dire, e molte volte questi ricordi ci aiutano lungo il passaggio nella città a rompere la monotonia. A Mantova cosa sa lei? Allora, a Mantova innanzitutto molti vanno a Palazzo Te e osservano nei soffitti di Palazzo Te i simboli alchemici che sono contenuti, ma sì. No? Pochi sanno che Mantova, insieme a Cremona, è stata una delle capitali della cultura ebraica nel 1500, perché tra Mantova e Cremona ci sono state le prime stamperie di testi ebraici italiani, tra cui alcuni fondamentali come Sefer HaZohar, il libro della Sapienza, sono stati stampati dalla famiglia Soncino in questa zona. I Gonzaga avevano un rapporto molto stretto con l'alchimia e, come ha spiegato Gershom Scholem, che è uno dei più grandi storici del pensiero ebraico, alchimia e Kabbalah sono molto connesse. Ora, sotto Piazza Guerrieri Gonzaga, che si trova direttamente dietro il Palazzo Ducale, dall'altra parte rispetto a Piazza Sordello, secondo alcuni ci sono ancora laboratori alchemici in cui gli alchimisti che vivevano nella via retrostante, una specie di viuzza d'oro di Praga che era connessa al Palazzo Ducale, da un'ala del corpo del palazzo che poi è stata distrutta nel 1799 con il bombardamento dei francesi, gli alchimisti da quelle case, secondo alcuni, potevano scendere direttamente sotto Piazza Guerrieri Gonzaga e in quelle officine alchemiche, alla presenza della corte, portare avanti i loro esperimenti nel tentativo della trasmutazione del metallo vino in oro. Sì, che poi è diciamo una metafora, la trasmutazione non era realmente legata ai metalli, erano tutte metafore di stati dell'essere. L'alchimia in realtà è una scienza del sacro, una scienza trasmutatoria, non è semplicemente metallurgia. Melog, la realtà condivisa. Secondo Dan Brown, se un uomo colto come Leonardo l'ha inserita nel dipinto al fianco di Gesù, c'è un motivo ben preciso. Se si guarda alla destra di Gesù, c'è il Santo Graal e il suo vero nome è Maria Maddalena. Ma come può Maria Maddalena essere il Santo Graal? Certo, dopo che il sommo maestro Giacobbo di questo ha fatto la ragione della sua vita, mi sembra miserrimo da parte mia fare queste citazioni, templari, santo Graal, alchimisti, cabalisti, fa parte ormai di una trattatistica moderna attraverso programmi televisivi, canali dedicati, subletteratura, tutti sappiamo qualcosa di tutto, infatti mi stanno arrivando tantissimi sms che improvvisamente si applica la regola segreta di ogni suggello esoterico, tutti devono sapere perché nessuno sappia, mi dice un ascoltatore che il paese di Rosazza, Biella, è il più esoterico d'Italia, un altro mi dice che c'è un pertugio che da Massa Martana arriva fino a Roma, saranno una cosa come 120 chilometri, mi sta bene, è un po' come il tunnel del CERN. Poi mi dicono, insomma, mi arrivano segnalazioni a tutta Italia, in particolare un ascoltatore mi dice: su Torino leggete il libro Torino città magica di Giuditta Dembeck. E io vi accontento che Giuditta Dembeck l'abbiamo al telefono. Giuditta, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Giuditta Dembeck è una giornalista, una scrittrice, ha scritto molti libri di argomento esoterico, ma fra l'altro ha scritto anche due libri importanti su Torino città magica, gli ultimi sono Il breviario degli angeli del 2007 e Meditazioni con gli angeli, l'ultimo libro. Giuditta, in pochi minuti non possiamo fare una summa, certo, di Torino città magica, ma Torino è la città che più si presta a queste letture, i torinesi lo sanno, l'altro giorno mi ha chiamato un ascoltatore parlandomi di un mago che riceve le persone, le divide fra uomini e donne, le tiene tutta la notte dentro e cose varie, ma è percepibile secondo te, ti faccio una domanda generale, questo spirito sottile delle città, quest'anima singolare che hanno le città, lo dico da laico, ma sono convinto che i passaggi, le attese, le sofferenze, le costruzioni, le persone che si avvicendano, lasciano una traccia nelle città, come l'uomo moderno le avverte secondo te? Sì, sicuramente, stai dicendo una cosa molto giusta, al di là di tutto quello che poi ci si scrive sopra, l'ho ascoltato con molto piacere quello che arrivava dalle altre città. Sarebbe bello raccogliere tutte queste leggende, mi hai dato l'idea per un altro libro, ma ci vuole uno come te che mette insieme tutto. Io metto insieme, butto via con un secchio dopo 5 minuti, questo è il mio problema, non trattengo. In un attimo hai fatto un grande collegamento, però si percepisce, dipende, se tu sei attento, se vuoi sentire la parte segreta, se vuoi sentire il respiro della città, il cuore della città, chiamiamolo in un altro modo, il genius loci della città, perché tutte le città hanno un'anima che è fatta dalle tracce, dai segni, dalle memorie che hanno lasciato tutte le grandi e piccole anime che ci hanno vissuto. Ma noi stiamo costruendo un genius loci contemporaneo, noi parliamo di città segnate dalla storia, dal passaggio. Io immagino chi nasce e vive in una periferia, che prima non c'era niente, c'era della sterpaglia, poi ci costruiscono del cemento, ma quel cemento è la sua vita, la sua storia, è il suo quotidiano, i suoi genitori, i suoi giochi da bambino, gente che muore, esce dalle porte, gente che nasce e mettono il fiocco. Si crea anche lì un genius loci, secondo te? Sì, più giovane. Ad esempio, scendendo dall'aeroporto di Roma ed entrando in città, attraversando quella che una volta era la campagna romana e che adesso è quasi tutto un muro di cemento, io che arrivo da fuori, da un'altra realtà, che all'improvviso sono proiettata in questa con un'ora di volo, mi sembra di sentire, di vedere i soldati romani che tornano dalle varie battaglie a piedi, probabilmente perché c'è una volontà di mettermi in ascolto e una sorta minima di... Forse sono i centurioni che tornano dal Colosseo la sera quando hanno finito il turno. No. Per i giapponesi. No. La memoria, la traccia, il ricordo di questi passaggi. Nel bene e nel male, nelle grandi cose e nelle grandi disgrazie. Voglio farti notare quanto poi anche dei banali modi di dire in realtà affondano le radici, tu lo sai meglio di noi, in cose antiche. Roy Doliner, che ho qui in studio, che ha scritto appunto Il disegno segreto, è un'interpretazione cabalistica della città di Roma, sembra quasi un'eresia a Roma, come la cristianità e l'antichità classica romana, no, invece c'erano anche i cabalisti, una presenza forte. C'è un gesto che io conosco, perché me lo tramandò mio padre, mai versare l'acqua e il vino alla traditora, cioè significa con la mano verso l'esterno, una bottiglia rispetto al senso normale. La traditore, se uno conosce persone un po' coatte, sono state in galera, se gli versa il vino verso l'esterno si può beccare anche una coltellata. Qual è l'origine del vino versato alla traditore? Ci sono tante persone che parlano della famiglia Borgia e non si versa il vino così per paura di venire avvelenato, però... Questa tradizione è più di due millenni, dalla prima permanenza degli ebrei qui a Roma, da 23 secoli fa, anzi. C'è un comitato in ogni comunità ebraica per prendere cura della salma del defunto. A Roma dicono anche alla Giudia, onestamente. Sì, esatto. I vecchi romani di sette generazioni dicono non versare il vino da giudio. E vuol dire, non è una cosa antisemita, vuol dire non versare il vino come il comitato della morte di una sinagoga, di una comunità ebraica, versa l'acqua per lavare la salma del defunto. Quindi usare la bottiglia in quella maniera significa, l'avranno visto fare da qualche ebreo, lavare un morto in quella maniera, cioè non lo versare così perché porta disgrazia. È una iella, come grazie, si dice. Grazie Roy Doliner per Il disegno segreto, grazie Giuditta Adembeck, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, quelli che non hanno potuto parlare avranno altra occasione. Torneremo su questo argomento.